consueto, dopo il GR di Radio Popolare si torna in diretta dagli studi di Via Zanardi, il Breakfast Club di Radio Città Fujiko e la voglia di farvi conoscere il progetto e la serie Actual. In altri suoni, quella che è una storicità e vede protagonisti jazzisti di primo ordine. Sto parlando di Archie Shepp, di Steve Lacy, aggiungo anche lo stesso Don Cherry e Sun Ra, per dirne alcuni, e poi tanti altri protagonisti. Siamo nel 1969, questa raccolta vede ed è un frutto di un esodo che la BYG, la Sun Ra Saturn e un'altra label di American Avant-Garde porta, la Pyramid, porta la sonorità di sperimentazione e ricerca, appunto, di altri suoni all'interno di un linguaggio di improvvisazione radicale. Allora, io inizio subito a parlare su questo brano che vi propongo in partenza, dando alcuni riferimenti anche storici, se vogliamo, per quanto riguarda questo passaggio che è molto significativo. Se gli anni 50 e 60 saranno jazz, l'arrivo degli anni 70 con un rock dirompente per quanto riguarda la scena più totale nel mondo della musica porterà all'interno della struttura jazz un percorso di approfondimento per quanto riguarda l'avanguardia e il free jazz, e alcuni autori si porteranno invece su un versante funky soul. Ecco, per quanto riguarda i primi ci sarà un approfondimento nella ricerca, nell'improvvisazione radicale, in alcuni suoni che diventano veramente inerenti alla rubrica altri suoni. Don Cherry, Sun Ra poi addirittura riporta per la Sun Ra Saturn Recording questa possibilità di ascolto assolutamente impegnativa, ma che traspira chiaramente una grande qualità e una voglia di conoscenza per quanto riguarda l'andare oltre nella musica. Intanto non vi faccio ascoltare i nomi più acclamati, ma un sassofonista, un contralto, David Allen con Memories. Ne ascoltiamo dal 1971, appunto, prima metà degli anni 70. Questo passaggio è veramente molto importante. Ne ascoltiamo qualche nota e poi continueremo in questo viaggio per lunghi tratti spaziale. You your sperm into me. Le voci, come stiamo ascoltando su questo brano di David Allen, Memorie, Memories, che appunto è molto rappresentativo per quanto riguarda, visto che siamo in scena, una teatralità nella musica, anche una certa estetica. Arrivano a teatro come gli Art Ensemble of Chicago, praticamente interpreti di musica ma anche di immagini. La conoscenza di un mondo che proveniva dall'altrove, beh, San Ra diceva che aveva contatti diretti con Saturno, una sorta di spazio che comunica direttamente con l'Africa. Questa è una delle frange di uno spiritual free jazz che per l'inizio degli anni 70 sarà un motivo di ricerca. Come ho detto, farò a Sanders, altro musicista presente, gli Art Ensemble of Chicago, per quanto riguarda questo esodo che porta nell'improvvisazione radicale note veramente molto ispirate e immagini. Aggiungo anche un aspetto estetico: le copertine sono molto particolari, molto belle. All of Ethiopia waits you, my prodigal son. Ha avuto diversi percorsi, dalla tecnica e dalle interpretazioni alla lettura di Ornette Coleman. Il free jazz, che se tecnicamente ha un aspetto colemaniano, per quanto riguarda la realtà emotiva è molto vicino a queste note. Procediamo, e dalla voce di Fontella Bass, appunto, gli Art Ensemble of Chicago danno una continuità con questa mini playlist che vi sto proponendo, selezionata dai lavori Jazz Actual, che non nascondo hanno anche un'estetica, come vi ho detto, molto interessante. Get in Line di Roscoe Mitchell, 1969. Che ho voluto dare in questa piccola rubrica con la Jazz Actual, magari ne riparleremo perché è molto attuale, come lo stesso cool jazz, il modal jazz hanno dato motivo di ricerca nel contemporaneo, anche questa improvvisazione radicale costantemente presente. Stiamo ascoltando gli Art Ensemble of Chicago, Get in Line, a breve avremo la pubblicità, ecco, poi quando nel contemporaneo arriva anche la parte elettronica, beh, ne parleremo in Jazz Live dalle ore 11:30 con il programma del Torrione e non solo. Intanto a breve avremo la rubrica In Scena, come ogni venerdì sui 103.1.